stamattina sono uscito alle 7, ho messo la mondetta fuori nella strada perché passa il camioncino a ritirare, cattiveria di 6 gradi. Sì, stamattina presto picchiava un po', c'era quell'aria frizzantina. Se sono animati, ci sono le montagne, però è un problema, però mi può fare il processo le calze. Mi ha giugato perché c'avevo un caldo a piedi, infatti c'ho i piedi caldi. Ah, poi io sto non bene di più. Invece a casa di Maria c'avevo freddo. Oh, ma a casa di Maria c'è la tua pellette. Sì, claro. Ma ancora non l'ha accesa, lì a dove ce la stava bene. Perché ho fatto questa cosa qua, micla. Passo tutto oggi, tutto domani, poi penso che sto meglio. Lui, un intervento è subito, non è che buccia l'arancia, no? Scusa, poi pazienza, piano piano, già ti riprendi, anzi, quando l'ha fatto Anna, che è stata lì, non riusciamo anche a mangiare, beveva solo succhi di frutta, roba liquida, capito? Tu già, il fatto che sei riuscito a mangiarti una mozzarella vuol dire che stai bene, diciamo, dai. Avanti, Antu. Queste cose sono un po' impegnative, però piano piano già ci si riesce. Sì, piano piano già va bene tutto. Quindi, anche stasera avete lavorato, e domani com'è, tu che sei, conosci il meteo? Cosa fa, piove, vento, interbara? Allora, secondo me ce l'abbiamo guardato proprio oggi, in Tirrinia, secondo me dovrebbe fare bonaccia, domani è anche una bella giornata, soleggiata. Poi, non lo so, i condimenti cambiano ogni 10 minuti, però domani ha messo buono, con leggera brezza, cioè brezza di giornata, dai, pochissimi minuti di vento. Gappa, vai allora. Già va bene, così domani mi faccio qualche altro lavoretto fuori, non riesco a fare un cacchio, c'è il giardino bagnato, devo fare una passerella dove stende mia moglie, dovevamo fare un gettito, invece non abbiamo potuto fare, che è tutto in fuscio, vabbè, aspettiamo il tempo buono, caro Rugariello. Adesso tua moglie come si trova lì da sola? Prima vabbè, era in condominio, usciva, si faceva la spesa, adesso ha bisogno di te, però, giusto? Sì, ministro, sono un carcerato, sono sempre a casa, io non esco mai, esco la mattina un'oretta perché ho bisogno di uscire un'oretta per le mie sigarette, due chiacchiere con gli amici, prendo il caffè lì dove andavo sempre, dove abitavo prima, capito? E niente, prima rientro a casa. Infatti faccio la spesa, faccio le commissioni, faccio tutto io, lei non esce mai e purtroppo è così, vabbè, pazienza. Ma guida, sì? Sì, guida. Però di macchina ne abbiamo uno, prima ne avevamo due, capito? Poi quando io ho smesso di lavorare era sempre ferma questa macchina lì a carbonati, ma non ci ho pensato a tenerla. L'ho data a un'amica di mia figlia che le serviva. Capito? Adesso a fine anno me ne prendo una, l'anno nuovo me ne prendo un'altra io, se no è un casino, mi posso muovere di meno, perché quando c'è tempo brutto io non esco, c'ho solo la moto, capito? Ehi, non ho capito. Ehi, vabbè. Oggi ho speso una barca di soldi qua, sto sempre spendendo, non è oggi mi c'è la macchina, no? O voglio una cosa, vuoi l'altra, capito? Quindi adesso che ho sistemato tutto e insomma le spese stanno finendo, prossimo anno, l'anno nuovo, me la prendo una macchina, adesso vediamo. Tutto qua può darsi anche che mi tenga quella che ho e se la prende mia figlia nuova, che lei la può scaricare, io non me ne faccio niente, una macchina nuova, capito? Adesso vediamo, devo vedere. E credimi, ingresso in questa casa, a parte che era già fatta, finita e tutto, ma per portare all'interno ho speso, io penso da aprile a oggi, 7, 8, forse anche 10.000 euro li ho buttati dentro questa casa. E a voi la ci porto così, noi a me, l'ultima cosa che devo fare, a me l'ultima cosa che devo fare è la copertura al camper. Devo fare la copertura al camper e ho finito. Stop. Come dicevo, anche il camper in garage e è finito. L'ultima cosa devo fare è quella. Io non ho finito ancora. Adesso sto facendo due tettoie, ma due tettoie ad hoc con le tegole, tutto fatto, tutta struttura in legno, bella, no? Io non mi posso di gaggardi, mi costa una barca di soldi. E uno appunto metto la macchina sotto e dall'altra parte, siccome mia moglie stende, perché gli ho messo i fili, lo stendino, tutto fatto bene, però quando piove non può stendere, allora con questi cazzo di stendini a destra e a sinistra a me mi si girano le balle. Ho detto vabbè basta, mi sono stufato, ti faccio la tettoia. E quindi adesso a tempo buono iniziamo a fare queste due tettoie. Poi devo terminare il pezzo della strada mia, e poi sicuramente ci sarà qualche altra cosa. Non si vieni mai, dai, non si vieni mai. No, non si finisce mai, genio, tutto qua. Vabbè, comunque. Sono contentissimo e quindi va bene così, l'investimento è quello e se Gesù Cristo ci lascia va bene, se no forse a ricevere i biazzi, vero tu? L'unica cosa che hai è che non darà accordo a quello che sei obbligato, cioè se questo mese non lo posso fare lo posso fare l'altro mese, non c'è nessun problema, invece là questo mese... Quello là, il pagamento, questo mese lo devi fare e basta, solo quella è la differenza. Non dire a me, 1600 euro all'anno di condominio pagavo conto, senza i lavori straordinari, hai capito, me rimangono in tasca quei soldi, senza lavori straordinari, e adesso devono fare la facciata stradale, quello lato strada, 3000, mi pare 3000 o 4000 euro a testa devono mettere, ma non tenendo. Un 3.000 euro mi gioco a prendere le due tettoie e adesso siccome questo è il primo inverno sto vedendo che la veranda è molto grande, la mia, molto grande, è abitabile perché è pavimentata, tutta in granito, è bellissima, ci sono i salottini d'estate, molto bella la TV, noi stiamo molto fuori d'estate, però per il prossimo inverno quella è chiusa, faccio tutta a vetrate, tutta. La chiudo tutta a vetrate con le zanzariere tutte scorrevole, lì ci vorrà un botto, però lo faccio perché me la sfrutto anche d'inverno, capito? L'inverno invece non puoi stare fuori perché c'è freddo, non tocca l'acqua, non tocca niente, però c'è freddo, se invece la chiudi puoi uscire a fumare, puoi uscire a fare tante cose, capito? E quella me la chiudo, però il prossimo anno, per quest'anno rimane così, si abbiglia in gomma e lo sciamà. E poi niente, noi siamo in quattro, qua sono quattro villette attaccate, praticamente vabbè, quattro famiglie perché sono due bifamiliari. E abbiamo deciso di sistemare anche la strada e di mettere i lampioni fuori nella strada. Adesso ci stiamo contando, vediamo quanto ci fa il preventivo. Ce lo fa Frau Antonello, che è un amico, grande elettricista, fa questi lavori, vediamo. E anche le spese, caro Eugenio, capito mi hai? Falla la tettoia per il camper, falla Eugenio, non badare a spese, falla, perché è un toccasano per quelle macchine la tettoia. No, aspetta, no, già lo faccio, abbiamo già visto tutto come va fatta, con chi me la deve fare, non c'è problema. Sto aspettando solo a lui che finisca di lavorare da un'altra parte e poi viene qua. Però è già a posto. Deve solamente finire. Capito il caso, loro a me. Io da poco ho rifatto tutta la facciata esterna, ho smontato di nuovo tutta la veranda, adesso è proprio bella, bella. Anche io me la devo chiudere. Me la chiudo tutta con i vetri a specchi, con le zanzariere, e un po' di soldi ci vogliono. Perché io ho una veranda lunga 11 metri, no, 14 metri e larga 5 metri, è grandissima, poi facciamo spuntini, la utilizziamo un sacco, quindi però la voglio utilizzare anche d'inverno, quindi me la devo tutta chiudere la veranda, me la chiudo con gli infissi, tutto a specchio, bello, già visto anche quello. Piano piano. Ascolta, io il preventivo l'ho chiesto a Donato Sanna, che fa sia PVC sia alluminio sia tutto vetro col plessiglass, una bella cosa. Ho visto certi lavori favolosi, non è molto caro, garantito 5 anni lavoro in PVC. Esce un bellissimo lavoro, tutti i colori, colore della facciata, colore bianco, marrone, come lo vuoi tu. Per quanto riguarda la mia grande, la mia è 20 metri lunga, 18 metri e 50 lunga e larga 4, è grandissima la veranda, poi non è fatta in legno, è fatta in muratura tutta, perché sopra c'è il terrazzino, capito, quindi è un bel grande, sono due arcate grandi, è un bel lavoro, sì, è un bel grande lui. Adesso vediamo, prossimo anno vediamo quello. No, le tettoie no, mi costano poco, 1500 euro l'una, però sono utili perché in una metto la macchina sotto, cancello, apri, boom, e metti la macchina sotto, nell'altra invece ripara quella pioggia, capito? KK, vabbè, facciamo, se Dio ci lascia, se no se la biglia in culo. Vai, Lugarie. Ormai che non ascolta chi so questo moribondo che mi è passato, non sono manco riposato stasera, sono dalle 5 sui 2 stamattina. Io mi sono andato presto, comunque stava piovendo, ho aperto lo sportellone della porta centrale, diciamo, allora entriamo, c'è lo sportellone, poi la porta o bel legno con i vetri di altri antisfondamento, ho aperto quella per entrare un po' di luce. Invece la Bugiubini che stava diluviando. Allora vabbè, ho lasciato lo sportellone aperto, l'ho agganciato con il gancio suo e ho chiuso a chiave la porta. Invece gioco d'ora da cucà. Però poi alle 6 e un quarto si è alzata l'aria, dovevo fare aprire alle 7 e mezza. E quindi mi sono andato anch'io, ci abbiamo fatto il caffè, due chiacchiere. Quando è uscita lei mi ci ha avuto la bucata e mi ci ha cominciato a ridere. Mi ha detto, io un paio di volte mi sono svegliato. E infatti adesso sono in relax, capito? In relax. E io voglio fare luce, se sta piovendo non posso fare niente. Io d'estate alle 6 del mattino ero già Fendi, capito? Stavo già facendo, adesso sei tutto bagnato, non puoi fare niente, anzi mi sono sceso giù nel cantiere, con il mio vicino abbiamo preso un paio di tubi, ci arrivano delle griglie, delle cose, ci ha autorizzato l'impresario, se ci serve qualcosa per fare i lavori di prenderlo adesso, perché devono venire i camion e portare via tutto, capito? Siccome c'è un bel magazzino dove è vantato un sacco di roba, quindi anche pacchi di mattoni eccetera, infatti devo fare un piano tutto in mattoni, tutto, già ce n'è materiale ancora, ho detto di usarlo, intanto era di questo cantiere, perciò non se ne ha fatti nulla. Antonio, e beh, lavorando un bel satte, no, tu? Stasera no, stamattina abbiamo lavorato bene, i giorni scorsi abbiamo lavorato forte. Oggi no, stasera no, non abbiamo fatto un granché. Scappa. Ma c'è la Pomponio, avanti Pompo. Molto Pompa, sono andato a mangiare. Ehi, aggiornami. Dovrò scendere a prendermi la bombola. Ce l'ho già 2 mesi, quanto è? Un mese e mezzo, non so. Pomponio. Ragazzi, io sto andando a mangiare, a masticare, vai. Ci sentiamo domani, non penso stanotte che sono Gappizzi, che domani mi toccano le 4, mi devo alzare prestissimo domani, vai. Ciao ragazzi, a domani, ci sentiamo. Un bacio, un abbraccio a tutti, ciao. Ciao Chihuahua, un abbraccio anche a te, grazie per essere entrato a salutarci, vai Anto. Cappa, ciao G, ce la risentiamo, ciao ciao. Avanti Lu. Buonanotte, ciao. E poi qualche giorno ti faccio provare Anto l'Adonis. Hai sentito l'altro microfono che stavo usando poco fa? Adesso sto usando il 60. L'altro che stavo usando poco fa sul 440, quello si può attaccare, no? Il connettore che alimentato direttamente dalla radio. Secondo me ti fa la modulazione più forte. Boh, a provarlo. E bello, è quello nero a flessibile, come l'MC80, diciamola. C'ha due uscite, puoi attaccare due connettori e usare un microfono con due radio, capito? Bello, 180 euro costa. Io ho pagato 160, nuovo. E non ne ho trovato di 60. Non ne ho trovato. Usati non ne ho trovato, nuovo non ne ho comprato. E allora ho preso nuovo questo. Funziona benissimo. Spinge un bel, c'è la regolazione anche là sotto, io l'ho regolato a metà là sotto. E poi le do il mic gain della radio, ma se aumento scherreggia forte, ho tenuto a metà là, già va bene. Aspetta che adesso già freddo, lo guardo al 30, adesso cambio a vedere se ti piace la modulazione. Questo è l'MC60, Eia. Guarda se trovi qualcuno a darle una controllata, a che robo suda. Cosa? Questo è MC60, chi lo posso dare? Aspetta che lo cazzo abbassare. Devo abbassare leggermente la... Questo è MC60, chi lo puoi dare? Via. Se ti va bene questo, magari scambiamo, non è un problema, via. No, perché ha un problema? A chi lo posso dare a vederlo? Tanto è un problema che fa anche il mio, no, non devi essere, non c'è niente al microfono, è un difetto che c'è la 2060 con quella lamellina, quell'interruttore sotto, capito? Lì ci vuole un esperto come ce lo so io, una persona capace che elimina quell'interruttore e lo mette diretto. Senza interruttore, guarda quello di Roberto gli ho venduto io, ma tanti anni fa, è amplificato uguale, è preciso, però non ha l'interruttore, è diretto, capito? Invece quello che abbiamo noi c'ha quell'interruttore sotto, ma intanto va in tilt, e quindi non ti fa andare l'amplificazione, lo si muove avanti e dietro e si riprende da solo. Questa è la Donis, la V508, tanto col 430. È buono. No, il mio è il cavetto, secondo me, che sta andando male. No, non è il cavetto, perché quel cavetto è nuovo, tranquillo. Quel cavetto è nuovo di pacca, nuovo. Non è mai stato aperto, mai stato in modifica, niente. È proprio un problema di interruttore sotto. Lo fa anche al mio, a volte il mio, l'altro giorno stavo parlando con Roberto, non stai uscendo, ho guardato lo switch e non si muoveva. Ho toccato l'interruttore sotto ed è tornato alla normalità, capito? No, questo fa così, cioè, io quelli tocco, questo cavetto qua, secondo come lo sposto, così e ritorna a posto, capito? Lo uso così zende. L'interruttore non c'è, secondo me non entra nulla, perché adesso non lo voglio fare, perché sennò, capito? Cioè, se io adesso tocco questo cavetto, quello che va al microfono qua, me lo fa... Ah, quello che è attaccato al piantone dell'MC60? No, quello che viene proprio dal microfono. Sì, quello che viene dal microfono, però il connettore che è attaccato al microfono o quello che va alla radio? Quello che va al microfono, non quello che va alla radio. Esatto, quello lì. Quello lì è tutto collegato a tutto il circuito di preamplificazione, ed è collegato anche, ti annulla e ti inserisce la preamplificazione del circuito, perché il connettore è comandato tutto da quel tassino, capito? Anche lì c'è il filo che va poi a far sì che esca amplificato il microfono. Tutto la lì su Gojo, tranquillo, guarda, non c'entra niente quel connettore, sono eccezionali quei connettori, poi non sono mai stati aperti. Hai un microfono nuovo, quindi non lo so. Oh, aspetta, tu non l'hai preso da me? No, Sto confondendo io, perché il mio l'ho dato al genio, l'avevo dato già al genio. Il mio è nuovo, nuovo, posso garantire a Beta che se il genio mi fate il problema. Nuovo, dentro la scatola, nuovo, nuovo, nuovo, mai toccato, mai niente. Tu l'hai preso da un'altra persona. Ho capito, ho capito, ho capito, quindi può darsi pure che sia stato già aperto, che sia stato già toccato, eccetera, e che quindi quel connettore è risente di qualche riparazione, questo non te lo posso dire, però non lo so. Io lo voglio mandare a qualcuno perché che me lo metta a posto. Tanto qualcuno da chi? Ma qualcuno qui farlo vedere a Luca, e Luca già li sa fare queste cose, controllare se il connettore è a posto, se c'è qualche falso contatto, se c'è qualche filo che tocca, se c'è qualche saldatura a freddo, lui ci vede, insomma sì. S'attenta a fare i figosi, io Antonio, me l'hanno fatto a me, guarda, il connettore di questo, della Donis, me l'ha fatto Gianfranco a me. Io mica ci sono buono a fare queste cose, non me lo più assoluto. Cappa, adesso appena che lo faccio vedere a qualcuno, perché insomma, no, mi sta dando un po' di fastidio. Non lo so, io il mio l'ha sempre fatto, questo che ho. L'ha sempre fatto perché è vecchio, è tenuto bene, però è vecchio, c'ha gli anni suoi. Quindi quell'interruttore ogni tanto va in tilt. Io lo muovo appena appena e non succede niente. Infatti lo faccio sempre prima di entrare in radio, nel caso voglia toccarlo, là, capito? Tutto qua. Comunque, questo è la Donis, la V508 col 430 e la Mantova. Non è male la modulazione, no? Ah, assolutamente no. Più o meno si assomiglia, c'ha il down e up, c'ha tutto, lo puoi accendere e spegnere, è come l'MC80, capito? Come l'MC80, uguale, solo che è nero anziché essere grigio, però è un bel microfono professionale, ce l'hanno tantissimi radioamatori, lo usano la Donis. Puoi accendere e spegnere, così non è il problema di che ci appoggi il braccio mentre la portante, capito? E prende l'alimentazione dalla radio, poi se lo metti su un altro radio c'è la sede batterie come l'MC60 uguale. In più dell'MC60 questo come l'MC80, l'85 della Kenwood, c'è la regolazione sotto, c'è un trimilino che ti regola, ti aumenta l'amplificazione come l'SM20 della Icom con microfoni uguali, là. Più o meno siamo lì, KK. Cappa, cazzo, il microfono è costa una bacca di dinami, la baci dall'MC60 in su, ci rimane di pagare. Ma questo non lo costa 160 euro, e l'ho pagato 140, che ce l'aveva disponibile, e me l'ha mandato. E siamo rimasti d'accordo che se dovesse entrare qualche MC60, le mando questo e mi manda l'MC60, capito? Però non ne aveva, quindi l'ho detto mandami un microfono perché c'è una radio senza microfono. A me caccia un band, buca un microfono, metti nell'altra. Io ho tre cable, devo avere tre microfoni. Devo per aggirarmi le balle. Ne avevo due, allora adesso ci ho messo questo. Però se provo un altro 60, metto un altro 60. Non me la fotti rotta. Va bene, addormentiamoci te. No, chi è che vuole entrare? C'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Se vuole entrare la porta è aperta, non ha bisogno di 12 metri, vicino a una fave bella. Beh. Ma ha salutato a te? No, non ha salutato, ha dato un colpo importante. Mi ha salutato, ma sì che voglio provare la forza. Ah, noi siamo qua, non c'è problema. Ia. Vabbè, te l'ho fatto sentire questo, la passo con l'altra radio. Con l'altra radio e con l'altra antenna, con la G-Pol. Cappa, è bello pieno comunque come cosa. Ma hai ripreso qualche Kenwood in più, sì? Di Kenwood? Ne ho tre più 757 Rai Ace. Ah, ho capito. Riprova con l'altro che voglio sentire la differenza. No, è la differenza. Questa è la G-Pol con 140. MC60. Quello a me mi pare migliore. Cosa? Mi sembra meglio questo MC60 a me. Beh, con la mia voce sì. MC60, poi questa spinge la radio, questa, poi c'è anche l'antenna che spinge, ma questo segnale è molto più alto. Lo so già. Guarda, chi sta portando? Santiago 5 qua. No, non è chissà, no. Questo è Santiago 5. Già l'ho visto. Che avanti! Uè, buonasera Alghero. Ben ascoltato. Avanti cra. Ciao Mirko, buonasera, ben ascoltato. Ecco cosa ci fa in radio a quest'ora. Se c'è qualche microfono che ci può interessare, Mirko, fammi sapere se c'è qualche MC60 della Kenwood, se c'è qualche microfono a tavolo della Yaesu, fammi sapere, prendiamo tutto in blocco, capito? Ehi, non c'è problema, faccio un salto ad Alghero io. Non problem, c'è qualche cosettina che voglio completare con questa radio, vedere un po', capito? Tutto qua. Quindi a te ti piace più il 60? Vabbè, tieni conto che il segnale è più alto e questa spinge di più per 4.30, eh? Vabbè, però c'è una timbrica diversa. Magari il segnale, ma c'è una timbrica diversa. Più bella, no? Più formosa questa, più... Sì, è un altro mondo, quei microfoni vanno molto bene, però nessuno può superare le MC60, non c'è niente da fare. Infatti adesso vediamo, se me lo tengo di scorta, quello, magari faccio le connessioni a ESU, mi faccio fare l'altro cavetto. Connettore IESU anziché ICOM, perché c'ha due uscite, bello per quello, capito? E uso una e l'altra, oppure lo uso solo sullo IESU, adesso vediamo. Avanti Mirko, che vado a prendere una cicca. Sì, Santiago, sì, Radio 5. Radio dai 4, 5 non te la do proprio perché è un po' disturbata. Comunque la modulazione ha migliorato dalle altre volte adesso. Oh, aspetta Mirko, dai che io devo chiudere, che vado a vedermi un po' di TV, c'è mia moglie sola. Vi saluto, vi abbraccio, ciao Anton, piacere mi ha fatto ascoltarti. Ciao Mirko, aggiornami su questa situazione e poi vediamo se c'è qualcosa che mi può interessare. Non c'è problema, ok? Ciao, riprendi, fai girare con Antonio, saluto anche a Luca e a tutti quelli che sono ascolto. Buonanotte a tutti. Capa, buonanotte, dai, ce la risentiamo. Ciao, buonanotte a tutti e due. Capa, Luca ci sei? Luca non riprende. Ti sento un po' meglio, ti sento stasera, Thank you. che è quello lì. Con questo meno male che già ti sento, perché però ti sentivo peggio. Ciao, dai, ce la risentiamo alle prossime, l'amico di Alghero. Mirko, dai, mi ricordo bene. Ciao, ciao.